È mercoledì 3 ottobre, i titoli, il Sole 24 Ore apre su fisco e rifiuti, un miliardo preteso e non dovuto di IVA, è un'iniziativa tra l'altro che vedremo tra poco e che riguarda tutti voi, tutti noi italiani. La Repubblica invece ha una notizia, via i condannati dal Parlamento, questo è il titolo di prima pagina, perché è pronta una legge del governo. Questo assicura Repubblica. E poi il caso Fiorito. Per il Corriere della Sera, case auto coi soldi pubblici. Il Messaggero, nuove accuse, Fiorito in carcere. La Stampa, Fiorito arrestato, trema il PDL. Il Giornale, il cinghialone paga per tutti, arrestato Fiorito. Libero, Fiorito va in galera, la casta dei cretini. L'Unità invece, Bersani Casini, lite su Vendola, mentre l'apertura del manifesto Degenerati, si gioca con la parola degennaro e riguarda la sentenza, la deposizione della sentenza della condanna per l'irruzione alla scuola Diaz nel G8. Ieri è stata depositata la sentenza, le motivazioni e ci sono nuove accuse nei confronti di De Gennaro, che allora era il capo della polizia, oggi è sottosegretario al governo Monti. Prima però voglio partire dalla prima pagina del Fatto Quotidiano. Ieri per la verità l'avevo già vista questa notizia su Italia Oggi. Il Fatto Quotidiano lo mette in prima pagina, in apertura: sicurezza all'italiana, 80 milioni per i braccialetti dei detenuti. Questa è una storia davvero allucinante, cari ascoltatori, che trovate raccontata a pagina 7 da Vittorio Malagutti. La denuncia è venuta dalla Corte dei Conti. Il braccialetto mangia soldi nostri. I giudici contabili hanno fatto i calcoli dal 2001, questa iniziativa evidentemente fallimentare del braccialetto elettronico per controllare i detenuti è servita per controllare appena 14 detenuti dal 2001 in 11 anni, 14 detenuti per una spesa di 81 milioni di euro. Una cosa che solo a dirla fa strabuzzare gli occhi e porta a doverla leggere 50 volte prima di crederci. Ebbene sì, è così. 14 bracciali al modico prezzo di 81 milioni di euro, un regalo da sceicco. Silvio Berlusconi che torna alla carica con le olgettine, scrive Vittorio Malagutti. No, nessuna serata elegante in vista, è denaro pubblico, l'ideona, almeno in teoria, dei braccialetti elettronici per sorvegliare i detenuti ai domiciliari, come fanno in America. Il risultato, l'ideona del governo è rimasta sulla carta, i bracciali entrati in funzione sono 14 nell'arco di 10 anni, in media fanno 5,7 milioni a pezzo, una spesa da gioielleria di gran lusso. Come ieri io ho twittato quando ho visto questa notizia, tanto valeva comprare a questi detenuti un Cartier e così magari la smettevano anche di fare le rapine invece di buttare via tutti questi soldi. Ma c'è poco da ridere come al solito, 80 milioni, anzi 81, denuncia la Corte dei Conti per controllare appena 14 detenuti domiciliari, soldi nostri che sono finiti soprattutto a Telecom Italia, che ha fornito i dispositivi elettronici di controllo nei confronti di persone sottoposte alle misure cautelari detentive per l'intero territorio nazionale dal 2001 a oggi. Un esperimento che però non ha portato grandi risultati, che dite? E voglio andare alla prima pagina del Sole 24 Ore perché il titolo è questo ed è collegato ad un'iniziativa che nasce oggi e riguarda l'IVA che si paga sulla tassa sui rifiuti. Allora, la domanda che dovete farvi è questa: controllate, visto che sono giorni in cui arriva la tassa sui rifiuti, mi è arrivata anche a me al comune di Milano, le rate sono già da pagare, il vostro comune vi fa pagare l'IVA su questa tassa sui rifiuti? Se sì, sappiate che la Cassazione ha stabilito che tutto ciò è illegale. Fisco e rifiuti, un miliardo preteso e non dovuto di IVA. Per la verità c'è un contenzioso, perché il governo continua a dire che è legale. La Cassazione in sentenze ha dichiarato questa imposta illegittima. Gianni Trovati riepiloga tutta la vicenda a pagina 3. Sulla tariffa rifiuti è giusto pagare l'IVA? No, secondo la Corte Costituzionale. Sì, sostiene il Ministero dell'Economia. No, ribatte la Cassazione. Certo, chiarisce l'Agenzia delle Entrate. No, ritiene la Commissione Tributaria Provinciale di Siena. Sì, controargomenta quella di Venezia. Come vedete c'è grande chiarezza, come in tutte le cose in Italia. Sta di fatto che ci sono sentenze, pareri, commissioni tributarie che si esprimono in un modo, altre in un altro. Una partita ping pong tra esecutivo, Cassazione, Corte Costituzionale ha impedito fino a questo momento la soluzione del problema. Ecco l'iniziativa del Sole 24 Ore che nasce da oggi. Il servizio online per quesiti e segnalazioni in prima pagina si chiama Dillo al Sole 24 Ore, un servizio per le denunce dei lettori. Pagate l'IVA sulla tassa dei rifiuti, non sapete che è un prelievo illegittimo? Ecco, potete spedire una mail a dilloalsole24@ilsole24ore.com. Un po' complicata la mail, comunque se comprate il Sole 24 Ore la mail è scritta e non vi sbagliate, è possibile così segnalare il caso concreto su questa vicenda che fa titolare in prima pagina 1 miliardo preteso e non dovuto di IVA. Questo per quel che riguarda le tasse degli italiani. Andrò subito a controllare oggi se pago l'IVA sulla tassa. Io non lo sapevo, noto ignorantone che sono, vado e provvedo. Noi ci fermiamo 5 minuti. Allora, alle 7:34 minuti siamo qui per la lettura dei giornali. Come detto, la vicenda di Francone Fiorito. È stato arrestato Air Batman, come soprannominato ormai da tempo, l'ex capogruppo del PDL alla regione Lazio, si trova nel carcere di Regina Coeli. Oggi trovate tanti articoli, Fiorenza Sarzanini, che sarà la nostra ospite alle 8:30 sul Corriere della Sera, racconta pagina 3. E insomma, le ultime vicende emerse dall'inchiesta, le fatture gettate nel tritacarte da Franco Fiorito per evidentemente evitare controlli della Guardia di Finanza, l'acquisto quasi perfezionato a Mentoni in Costa Azzurra e dunque una splendida casa che si aggiunge alle altre proprietà, 11 secondo il Corriere, sparse tra Roma, Nagni, Tenerife, al Circeo, 2 appartamenti ottenuti in affitto da enti benefici. Ed è proprio questa trattativa immobiliare che stava concludendo in Francia per ha portato all'arresto, perché uno dei motivi che ha convinto il giudice sulla necessità di farlo finire in carcere era il rischio di fuga all'estero. E dunque c'è anche le fatture dell'antibagno, la caldaia pare si sia comprato coi soldi dei fondi destinati al gruppo del PDL, la caldaia. Il SUV perché a Roma, quando a Roma c'è la neve. Ora, cari cittadini di Roma, quando ha nevicato 5 centimetri forse avete fatto festa, si è comprato, secondo l'accusa, il SUV per la neve, per fronteggiare il drammatico problema della neve a Roma. Una Jeep per la neve a Roma. Questo è il titolo, per esempio, del Messaggero a pagina 3. Beh, ognuno ormai fa fare le pulci, anche il secolo XIX, la Jeep antineve a Roma e la caldaia a spese nostre. Ecco, queste sono le ultime dall'inchiesta di Franco Fiorito. Il SUV comprato per la neve a Roma è anche parte del titolo a pagina 6. Beh, da certo colpisce, quindi ecco che viene subito messo in rilievo. Ovviamente, quando è stato arrestato, uno che fa? Uno viene arrestato e chiude le comunicazioni col mondo e va in guardia, alla Guardia di Finanza e poi in carcere. Non Franco Fiorito, uno abituato a battagliare, no? Rocky Fiorito, come l'ho soprannominato in tutte le trasmissioni televisive, cosa poteva fare? Solo quello che ha fatto Franco Fiorito. Rispondeva al cellulare ai giornalisti mentre era in caserma, con anche messaggi che mandava, gli SMS di Batman dal carcere, ora mi prendono le impronte. Così, per esempio, a pagina 2 del secolo XIX, Carlo Gravina racconta che continua a rispondere, anche se nell'ufficio della Guardia di Finanza. Eccolo qui, risponde una volta, l'ordinanza è su un ipotetico pericolo di fuga, sul fatto che essendo ancora consigliere e presidente della Commissione Bilancio potrei reiterare il reato, ma è impossibile. la commissione ufficialmente già sciolta. Poi a un certo punto risponde ancora, manda un messaggio: mi stanno per prendere le impronte digitali, poi mi faranno le foto segnaletiche. Insomma, protagonista fino all'ultimo, anche sul quotidiano nazionale, a pagina 6 e 7, il Fiorito Show. Mi stanno prendendo le impronte, mi aspettavo dell'arresto, ma che è un'infamia. E poi l'ingresso in carcere. Arrivato in carcere, ha detto, così raccontano tutte le cronache dei giornali, meglio in carcere che nel Popolo della Libertà. Qui troverò certo gente migliore di quella che ho frequentato nel partito. E si è tolto questo sassolone dalla scarpa, evidentemente, Francone Fiorito. Tra l'altro è andato subito a trovarlo Alfonso Papa, deputato del Popolo della Libertà, un altro che il carcere l'ha visto per oltre 100 giorni, è stato a Rebibbia. Eccolo qui, commento di Fiorito quando arriva Papa: credo che in carcere non troverò gente peggiore di quella che ho frequentato in regione e nel partito. Mentre Angelino Alfano diceva: l'arresto arriva in tempo per impedire a Fiorito una ribalta televisiva che stava irresponsabilmente cavalcando. Eccolo qui invece Fiorito che risponde con le battute al momento dell'arresto ai giornalisti: avete fretta di vedermi in carcere, eh? E poi l'ingresso in carcere, come racconta il Messaggero, è avvenuto così. Il Messaggero, trovate l'articolo a pagina 2, intervista anche il cappellano del carcere di Regina Coeli. Prima la telefonata alla madre, poi la richiesta all'avvocato, subito è questa, l'avvocato Taormina: non mi devi spiegare nei dettagli la mia strategia difensiva, lei caro avvocato mi deve solo dire una cosa: quando uscirò, quanti giorni mi farò lì dentro, io sono quello che ha tirato fuori la schifezza che era nascosta là dentro. Ed eccolo qui il cappellano, padre Vittorio Trani: qui sono tutti uguali, seppure lo avessi incontrato non ci avrei fatto caso, dice una piccola bugia. Qualcuno quando arriva qui in carcere scoppia subito, non sopporta l'idea di essere diventato una nullità, un numero, spiega padre Vittorio. Ma certo, se lo conoscerò farò subito amicizia con lui. Come lo hanno accolto in carcere pare una senza accoglienza particolare, tranne fa sapere un assistente sociale di Regina Coeli che solo un detenuto, quando è arrivato in carcere, gli ha urlato: a Batman, facce ride! Ecco, questa è stata l'accoglienza di Franco Fiorito in carcere, mentre sua mamma da fuori urla: è innocente, è il migliore di tutti. Gli dovrete chiedere scusa. Così racconta Maria Corbi, inviata ad Anagni, il feudo del federale de Anagni, come si è auto soprannominato Francone Fiorito, e trovate il resoconto sulla Stampa. Scene davvero da declino della politica, raccontate per esempio in questa ormai celebre festa in cui si celebrava la merda, ecco, la festa della merda, è stata fatta a Roma anche questo da Paolo Pazzaglia, uno che organizza feste trash e che dice ora in un'intervista a Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera: faccio queste feste per provocare il potere costituito, la politica. Queste feste c'era anche, è diventata storica, è stata intervistata anche dalla Zanzara, la presidente della Commissione Cultura alla Regione Lazio, Veronica Cappellaro, 31 anni, scrive Roncone, strettissima osservanza berlusconiana. Una festa organizzata in spregio a voi politici. E beh, risponde la Cappellaro, perché non è vero che stiamo tutti nella merda? E senta, pure lei, risponde la Cappellaro, non creda, pure lei è nella merda se è costretto a chiedermi di quella festa invece di farmi domande sulla mia importante attività alla Regione Lazio. E allora Roncone dice: ecco, allora le chiederei perché ha speso 1.080 euro per farsi un book fotografico, 17.000 euro per una serie di cene da Pasqualino al Colosseo e 8.800 euro per un aperitivo al Bar Martini. Perché? Ah, vabbè, no, dico, mi vuole mettere in croce per un aperitivo? Questa è la risposta della Presidente della Commissione Cultura. Un aperitivo da 8.800 euro, signora. Senta, ma qual è il politico che paga di tasca sua? Lei ne conosce? E poi, ma che me frega a me? Posso sta perde tempo con lei per una festa sulla merda? La presidente della Commissione Cultura della Regione Lazio, Veronica Cappellaro, risponde così a Fabrizio Roncone. a pagina 5 del Corriere della Sera. La situazione, se non fosse tremendamente seria, ci porterebbe a sorridere e a ridere. La situazione invece, appunto, è maledettamente seria. La posizione del giornale è: il cinghialone paga per tutti. In realtà i timori di Berlusconi sono che il PDL, così titola almeno la stampa, ha perso a questo punto 1 milione di voti, e la stampa titola con il retroscena politico di Amedeo La Mattina: Berlusconi pensa al ritiro. La debacle nel Lazio si ripercuote su tutto il partito, che cala sempre di più. Sul Corriere della Sera invece Paola Di Carro racconta che Berlusconi starebbe pensando a, come dire, uso un verbo più in uso a sinistra, a rottamare tutto e fare una propria lista personale, insomma cambiare totalmente la situazione. A proposito di corruzione invece, però, la notizia che viene data da Repubblica è la notizia interessante, viene messa in prima pagina: via i condannati dal Parlamento, che non è uno slogan, è una proposta che, secondo Repubblica, in questo articolo di Liana Milella, starebbe pensando il governo. Condannati in via definitiva fuori da qualsiasi carica elettiva, come i 26 che attualmente siedono tra Camera e Senato. Se il governo Monti vince la difficile sfida contro il tempo, già nella prossima competizione per la Regione Lazio potrebbero valere le nuove norme sul divieto di far correre rappresentanti su cui grava una condanna passata in giudicato per pene superiori a 2 anni. Il vettore potrebbe essere il DDL anticorruzione, lo strumento una legge delega prevista proprio in quel testo all'articolo 17 per bruciare i tempi. Scrive Liana Milella in questo interessante retroscena, che poi continua a pagina 3 di Repubblica, che la notizia è esplosiva. Salta fuori da un colloquio super riservato tra il guardasigilli Paola Severino, il ministro della giustizia, e il ministro della funzione pubblica Patroni Griffi. Entrambi a Palazzo Madama al Senato, orecchie sensibili lì vicino ascoltano questo colloquio. Dice Patroni Griffi a Severino: sai che c'è, Paola? Qui la sfida è far partire subito le norme sull'incandidabilità. Non si deve più andare a votare coi condannati in lista. Non dobbiamo perdere questa occasione. Replica del ministro Severino: hai ragione, dobbiamo farcela assolutamente. Ed ecco la promessa di Patroni Griffi: bisogna anticipare al massimo i tempi della delega. Questo ci chiede Monti. Dunque, via i condannati dal Parlamento, il governo Monti accelera su questa delega. Entro dicembre potrebbe esserci l'incandidabilità, e se succede, altro che Monti bis. Mi sa che la gente è pronta a un Monti ter, a un Monti quater, a un Monti quinques. Poi mi fermo perché il mio latino è arrugginito. Intanto il ministro dell'economia Vittorio Grilli per la prima volta risponde, replica alle accuse che da qualche giorno sono sui giornali, prima sulle consulenze alla sua ex moglie e poi sulle telefonate con intercettazioni che sono finite anche su qualche giornale tra i colloqui tra lui e Ponzellini quando era la Banca Popolare di Milano. Lo fa con una lettera, dopo che pubblicata in prima pagina del Sole 24 Ore, per rispondere anche al professor Luigi Zingales, che aveva accusato di scarsa trasparenza per questa vicenda. Vittorio Grilli, il ministro dell'economia, risponde così: gentile direttore, ieri il Sole è tornato a parlare di presunte consulenze che sarebbero state affidate alla mia ex moglie Lisa Lovenstein e della questione Ponzellini. Mi permetta di svolgere le considerazioni. Così come dichiarato dalla diretta interessata, la signora Lovenstein non è mai stata affidata alcuna consulenza da parte del gruppo Finmeccanica. E a queste inequivocabili smentite anche da Finmeccanica posso aggiungere che mai ho chiesto o sollecitato qualsivoglia tipo di intervento a favore di Lisa Lovenstein. Per quanto riguarda invece il rapporto tra me e Ponzellini, è un rapporto amicale con lui e la sua famiglia, iniziato quasi 20 anni fa. Durante le settimane che hanno preceduto la nomina al governatore della Banca Italia, diversi conoscenti e amici mi hanno reso partecipe in forma privata delle loro considerazioni, valutazioni in merito alla vicenda. È solo in questa chiave amicale e privata che possono essere lette le conversazioni, con mia sorpresa pubblicate, e giudicato il loro tono colloquiale e informale. Dunque, poi continua la lettera, comunque smentisce qualsiasi tipo di coinvolgimento. La replica di Luigi Zingales è, oltre ai ringraziamenti al ministro per aver chiarito la vicenda riguardante la moglie, la ex moglie, Scrive Zingales: nonostante ciò, un direttore generale del Tesoro e illustre accademico dovrebbe sapere che c'è un motivo per cui un governatore della banca centrale deve essere e apparire indipendente. Qualsiasi azione di lobbying, anche basata sull'amicizia, indebolisce questa indipendenza. E anche il direttore del Sole, Roberto Napoletano, parla, oltre a ringraziare, insomma, per aver fatto chiarezza, parla comunque di zone d'ombra, che è bene piuttosto fare tesoro di quella che resta almeno una leggerezza. Dunque definisce almeno una leggerezza questa vicenda. Comunque è la prima volta che Vittorio Grilli risponde pubblicamente su questa vicenda. Trovate la lettera sul Sole 24 Ore. Intanto Berlusconi, che è in difficoltà per il partito, non è in difficoltà a livello economico. È vero che deve a De Benedetti per la sentenza una fraccata di soldi, ma ormai, secondo Libero, è definitivo. Berlusconi vende Villa Certosa per pagare De Benedetti, accordo con un capo di Stato dell'ex Unione Sovietica, non citato, che comprerebbe per 470 milioni Villa Certosa, la cifra più alta di sempre per una residenza privata. E servirà, secondo Libero, trovate con Franco Bechis, dicendo a novembre si firma, dunque tra un mese si firma, coprirà parte della multa per il lodo Mondadori. Dunque Berlusconi ha venduto non al Paris Saint-Germain, ma a un ex capo di Stato, un attuale capo di Stato dell'ex Unione Sovietica, non si capisce quale, questa Villa Certosa avrebbe ormai venduto 470 milioni di euro. A sinistra invece si litiga per le primarie, litigano soprattutto Vendola e Casini. Vendola ha sciolto il dubbio: mi candido alle primarie del centro-sinistra, corro anch'io. Casini si è arrabbiato, ha detto: mi fai inorridire questa cosa di Vendola. Bersani gli ha risposto per rima, ha detto: inorridire è una brutta parola, e poi tu ti inorridivi con Berlusconi forse. Insomma, qualche scaramuccia su questo tema. Vi segnalo anche se è su Vanity Fair, dunque un giornale non strettamente politico, anzi per nulla politico, un'intervista di Alessandro Sallusti, direttore del giornale condannato in attesa che succeda qualcosa per evitare il carcere, che si toglie anche lui qualche sassolino dalle scarpe. Pagina 24, 26 e 28, tre pagine di intervista. Insomma, Farina lo definisce uno stronzo, cioè colui che ha scritto l'articolo, a prescindere da quello che ha scritto. E Feltri una volta già mi fece fuori da Libero. E anche al giornale: c'è chi mi vuole cacciare, qualche mese fa mi volevano licenziare. Ma chi? Berlusconi? No, non lui, ma posso immaginare chi. Insomma, un Sallusti d'attacco. Almeno ditemi che a questo punto Farina non rimarrà onorevole. Un Sallusti che attacca un po' tutti, anche Travaglio e Mentana, difese false le loro, hanno creato un clima di odio. E dunque un Sallusti che vuole attaccare a destra e a sinistra. Io solo un minuto. Come si fa a descrivere delle foto in radio? Ogni volta succede questo dilemma e non si riesce. Ma guardate che su tutti i giornali ci sono le foto di scene da terzo mondo. Scene che potrebbero venire, non lo so, dalla capitale del Burundi, con massimo rispetto della capitale del Burundi. Quello che è successo ieri a Milano, lo sciopero, freni tirati delle macchine, gente che si è trovata in metropolitana nelle gallerie, è dovuta uscire a piedi scendendo dal treno al buio, gente e foto che in giacca e cravatta, vestito di tutto punto, magari stava andando a un impegno di lavoro, si è dovuta abbassare, strisciare come un marine dello sbarco della Somalia per passare sotto le saracinesche che stavano chiudendo per prendere l'ultimo treno. Insomma, una trappola per 30.000 milanesi. Rischiavamo di soffocare, così la denuncia, per questo assalto all'ultima metro con spintoni, 8 persone che si sono sentite male. Devo dire qui anche il livello civile della popolazione è infimo, lo devo dire, nel senso, c'è lo sciopero, disagi, e poi ci si mette la gente che litiga per l'ultima metro, si spinge perché è il mors tua vita mea. Questo è, in realtà ormai siamo ridotti a questo. Il Corriere della Sera titola in prima pagina: immagina uno sciopero così, non è da paese civile, si vede proprio una donna, non so, forse una manager, un avvocato, in tailleur, tutta strisciante per cercare di passare sotto la saracinesca e prendere l'ultima metropolitana possibile. Davvero una tristezza infinita. Vi lascio al giornale radio.